강. 어휘. Chimica. Festa. Giardino. Inglese. Lezione. Minuto. Ora. Orologio. Pausa. Semestre. Tempo. Altro. Difficile. Preciso. Vero. Adesso. Avanti. Fino a. Indietro. Tra poco. 문형. Scusi, che ora è? È 1:10. A che ora abbiamo la lezione? Alle 2. Da che ora a che ora abbiamo lezione? Dalle 11:30 all'1:20. Fino a che ora è in casa? Sono in casa fino alle 10. Deha. Che ore sono? Sono le 11:20. A che ora c'è la lezione d'italiano? Tra poco, alle 11:30. L'italiano non è difficile? No, non è difficile. Abbiamo altre lezioni oggi? Sì, abbiamo 2 ore di lezione d'inglese. Dalle 3:30 alle 5:30. Alle 6 abbiamo una piccola festa nel giardino, vero? Sì, c'è una festa per il primo giorno del semestre.